di nuovo in mostra, 8 e 10 minuti in questo momento, giovedì 4 luglio, e quindi la nostra rubrica Regola d'Arte vi porta a Venezia, Palazzo Ducale, per un'esposizione già aperta ma che sarà fino al 29 settembre ovviamente 2024. Non volevo perdere questa presentazione a 700 anni dalla scomparsa del mercante viaggiatore, uomo di cultura, anche di diffusione culturale come Marco Polo, in un percorso veramente esteso come i suoi viaggi, se vogliamo, che per quanto riguarda l'epoca, stiamo parlando del 1200, 1300, fine 1200 fino alla prima metà del 1300, sono veramente dei viaggi intergalattici per l'epoca. Lui parte 17enne col padre e con lo zio, si imbarca e ovviamente inizia questa avventura, un'avventura che sarà anche letteraria, come ben sapete, una caratteristica folcloristica, se vogliamo, nel contemporaneo. A lui sono state dedicate, mi pare, le ultime 1000 lire, ecco, questa piccola banconota che riportava la figura di Marco Polo. Ok, questa è una facezia che mi è venuta in mente così chiacchierando con il curatore Giovanni Curatola, co-curatore con Chiara Squarcina, per il viaggio di un mercante veneziano del 200, I mondi di Marco Polo. Allora direi che siamo pronti e possiamo partire anche noi per conoscere l'esposizione a Palazzo Ducale. Breakfast Club in mostra, vogliamo portare questa esposizione, Il viaggio di un mercante veneziano del 200, I mondi di Marco Polo. Sarà fino al 29 settembre, per cui abbiamo tutta l'estate a Palazzo Ducale, nella serenissima principessa dell'Adriatico Venezia. La curatela è di Giovanni Curatola, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E allora parliamo di un grande viaggiatore, di un mercante, ma non solo, e oltre. Lo conosceremo sempre meglio, anche per un importante anniversario a 700 anni dalla morte di Marco Polo. Che identikit ne esce da questa esposizione? Esce l'identikit di un uomo moderno, di un uomo curioso, di un uomo assetato di conoscenza, un grande viaggiatore, un grande osservatore. La memoria di Marco Polo è prodigiosa. Pensiamo che lui sarà imprigionato a Genova e avrà come compagnia i suoi ricordi di viaggio, questa cavalcata di anni e anni attraverso tutte le terre dell'Asia. E in mostra cosa troveremo come sezioni, come percorsi, come realtà anche artistiche? Allora, in mostra troveremo la casa di Marco Polo. Per la prima volta, gli scavi condotti una ventina di anni fa sotto il teatro Malibran hanno riportato alla luce, e poi ricoperti ovviamente perché c'è il teatro, la casa effettiva di Marco Polo, e attraverso i documenti che restano nell'archivio e le evidenze archeologiche è stato possibile ricostruire precisamente per la prima volta come era la casa di Marco Polo. Quindi iniziamo dalla vita di Marco Polo, vita a Venezia, anche con uno degli ultimi atti di Marco Polo, sia il suo testamento in cui lascia tutta una serie di beni, compresa la casa. Marco Polo si è arricchito, diciamo, ma era benestante, non era diventato ricchissimo. Poi abbiamo appunto attraverso i mondi, il primo mondo è quello veneziano, e altri mondi sono il mondo della letteratura, il mondo dello scritto, il Milione, la sua opera famosa, ma è l'unica che scrive in collaborazione con un letterato, Rustichello da Pisa, e quindi varie edizioni e copie del manoscritto e dei libri a stampa del Milione, che ha avuto un successo straordinario. Marco Polo non in vita, cioè il grande successo sarà una volta che lui è scomparso. Zeri shurne matnum pod zerka stacenagum khalbadalen roti zgane bazaruma Pazelalu Khalbaldalen Loti Tsaganer Bazaruma Hautzelalu Il viaggio inizia, anzi è già iniziato, siamo arrivati in Armenia, una delle tappe fondamentali di Marco Polo. Allora, intanto grazie per il messaggio che è appena arrivato, grande William, buongiorno a te. Marco Polo ha scoperto l'America pensando fosse l'India, italiano classico nella sua confusione, colonizzatore fallito, forse era Cristoforo Colombo, forse... Ma come ben sapete siamo un paese di santi eroi e navigatori, in questo caso, beh, navigatore come? Per quanto riguarda il suo motivo di colonizzazione, SNI, nel senso che lui era talmente felice di questi viaggi dall'identikit che ne è uscito da questa mostra che era intento sì all'aspetto del mercato, del resto Venezia, che è stata dominata anche dai genovesi, non era esattamente una potenza guerriera, era una potenza che voleva, grazie al mercato, arricchirsi, certo, e portare una società che comprendeva ogni tipologia, i famosi mori, c'era la realtà ebraica, c'era uno sguardo continuo verso l'Oriente, società aperta che grazie al mercato è stata, per quanto riguarda l'epoca, probabilmente la più progressista delle repubbliche marinare, ne ha pagato le conseguenze con Genova, è stato arrestato lo stesso Marco Polo a Genova e ha avuto modo, dal punto di vista letterario, grazie a un grande intellettuale scrittore pisano, di portare il famoso milione a compimento, uno dei primi diari di viaggio. Stiamo ascoltando un chitarrista, Michael Brook, ma soprattutto stiamo ascoltando il duduk, tipico strumento dell'Armenia, dove Javan Gasparian ne è un interprete, un compositore tra i più acclamati, e troviamo in queste note portate da un flauto che viene costruito dal legno del ciliegio in Armenia e ogni musicista deve costruire il suo, ha un'appartenenza molto singolare e particolare, sentite questa sonorità dal duduk. Facciamo refusi, anche se ne saremmo ben giustificati. Le ultime affermazioni del ministro della cultura ci giustificano a tutto, ma noi andiamo oltre, non prendiamo dei cattivi esempi, quindi procediamo con il nostro viaggio, lasciamo l'Armenia e procediamo verso Oriente, ma prima troviamo un'altra caratteristica di Marco Polo che ci sarà presente in mostra. E poi la cartografia. Le informazioni che Marco Polo fornisce attraverso il suo testo sono preziosissime per lo sviluppo, a partire dalla diffusione straordinaria del milione, appunto di manoscritti e di cartografie, di carte dell'Asia. Prima non sapevamo bene com'era l'Asia, Marco Polo dà dei riferimenti estremamente precisi, perché è un mercante e quindi la sua guida per altri mercanti dice esattamente le distanze che si devono percorrere, per dire fra Milano e Venezia, dice sono 20 giorni a cavallo, si attraversano questi fiumi, si attraversano queste pianure, e quindi è un disegno, un dettagliato riscontro di quello che lui attraversa. E poi abbiamo delle sezioni geografiche, non potendo illustrare tutta l'Asia, che sarebbe stata una impresa impossibile per chiunque, abbiamo scelto 4 tappe e 4 diverse incontri con anche religioni particolari. La prima tappa è l'Armenia, dove incontra un cristianesimo, lui è certamente cristiano, ma un cristianesimo diverso da quello a cui lui è abituato, quindi incontra l'Islam in Iran, Iraq, nell'Asia centrale, quindi i territori sotto il dominio islamico. Quindi un'altra sezione è quella dedicata alla Cina, una delle sezioni più corpose, ovviamente, perché molti anni passerà in Cina Marco Polo. Noi tendiamo a identificare Marco Polo con la Cina, ma con questa mostra aggiustiamo un pochino anche il tiro, perché non è solo Marco Polo e la Cina, anche se la Cina ha un'importanza straordinaria. E quindi l'India, perché sulla via del ritorno lui passa attraverso l'India e testimonia e documenta anche la sua visione dell'India. L'ultima sezione che abbiamo predisposto nella mostra è quella relativa alla iconografia di Marco Polo. Di Marco Polo non abbiamo un ritratto, ne abbiamo molti, ma tutti inventati. Cioè l'iconografia di Marco Polo è un'iconografia postuma. All'epoca, quando lui muore nel 1324, non si usavano ritratti per questi personaggi e non era poi così, sì, importante, ma non così famoso, e dunque tutta una iconografia che è straordinaria, perché abbiamo appunto ritratti, abbiamo le mille lire, anche se non proprio le mille lire, ma i lavori preparatori della Banca d'Italia, quello che è forse il ritratto più celebre di Marco Polo nel mondo, ma partiture teatrali, disegni, un po' di tutto di quello che è l'iconografia, soprattutto fra 8 e 900 del nostro Marco. Dall'Armenia arriviamo in Persia. questa conversazione a distanza. Comunque ormai Venezia non è città di mercanti, ma è una business city di turisti, albergatori, Airbnb. Certo, i tempi sono cambiati. Le grandi navi, sì, hai detto la definizione azzeccata, le grandi navi sono una assoluta porcheria che vanno a devastare un territorio fragilissimo. Quindi no, grandi navi, assolutamente. Sapessi quanto lo odio anch'io il capitalismo. Dovresti rivalutare la figura di Marco Polo, che non era esattamente così ricco come si narra, no? Assolutamente. Magari una famiglia non certo in difficoltà, ma non era questo. Anzi, un lavoratore, un avventuriero, un viaggiatore, soprattutto attento alle altre culture, come stiamo ascoltando. Arriva a conoscere un cristianesimo diverso in Armenia, e siamo nel 1200, e chissà, arrivando in Persia troverà anche la conoscenza con la famosa realtà del sufismo, il movimento sufi che è legato all'Islam, però ha una visione per quanto riguarda ad esempio la donna, per quanto riguarda la poesia, per quanto riguarda l'arte, per la musica. E qui ne troviamo la massima esponente, che è Susan Dehim, viene definita, pensate un po', è una donna, la voce di Dio. Molte volte lo avviciniamo troppo alla Cina, che indubbiamente ha avuto un'importanza, ma dimentichiamo che all'epoca l'impero mongolo, il secondo impero più esteso di tutti i tempi, aveva da lì in avanti un'estensione e un'importanza molto molto presente e forte. Ne parleremo anche di questo con colonna sonora, certamente, di spostamento e di viaggio ulteriore. Tra poco l'esposizione I mondi di Marco Polo, il viaggio di un mercante veneziano del 200 a Palazzo Ducale a Venezia. A tra poco. contrabbasso Ned Rothenberg, al contrabbasso invece troviamo il nostro Paolino Dalla Porta. Ma la voce, questa voce meravigliosa dalla Tuva, dalla Mongolia, Sainko Namchlak, il disco Stepmother City, una produzione di Ponderosa, una label italiana. Se riuscite, recuperate in qualche modo questo disco, perché ne ascolteremo anche un altro brano. È di una bellezza, tra una struttura reiterata tipico del canto della Tuva, che ha una modalità tutta particolare. Ci stiamo avvicinando alla Cina, ma l'impero mongolo era così esteso che non si può certamente evitarne in colonna sonora, e questa ne è probabilmente nel contemporaneo la più grande esponente, Sainko Namchlak. Tutta l'estate a Palazzo Ducale Venezia, quindi la possibilità di una gita nella splendida città serenissima per conoscere i mondi di Marco Polo, partendo proprio dalla dimora, dalla casa di Marco Polo, fino a trovarne un viaggio che non solo per quanto mi riguarda mi ha fatto rivalutare la figura di questo grande personaggio, ma ulteriormente portato su un'epoca storica, una diffusione di conoscenza culturale veramente molto importante, no? E come si dice, chi primo arriva... un precursore di tanti viaggiatori, no? Si dice l'Italia è un popolo di poeti, di santi e di navigatori. Lui è stato un anticipatore dei tempi, forse. Sì, certamente. Non è stato l'unico, Non è stato l'unico, nel senso che già prima di lui e anche dopo sicuramente, ma anche già prima di lui, alcuni frati, altri viaggiatori sono andati in Asia. La cosa straordinaria di Marco Polo è appunto il suo resoconto. Cioè lui ce lo racconta, ce lo scrive, è un cronachista molto, molto preciso e molto scrupoloso, quindi non solo il viaggiare, ma anche il raccontare il viaggio, quindi lo stimolare gli altri a fare un po' come lui, con questa curiosità, questo interesse per l'altro. È un ottimo giornalista, per dire, nel senso che da pochi giudizi si capiscono anche alcune simpatie o antipatie che lui ha, però è particolarmente obiettivo, non si lascia andare a considerazioni particolari. Sì, certo, qualche volta si notano appunto dei suoi aspetti e delle sue, come dire, predisposizioni. In un momento come questo lui ha dato un esempio, secondo me, anche di quello che è, seppur con il mercato, quindi con una particolarità abbastanza importante, però ha pur sempre dato un esempio di comunicazione tra i popoli, tra i paesi, in un momento in cui, insomma, è abbastanza divisivo, purtroppo. Certamente, certamente, lui è un veneziano, quindi Venezia ha una sua, sì, predisposizione verso il viaggio, verso l'avventura, verso l'economia. Lui è molto interessato anche alle merci che vede, che trova, alle valute che incontra, quindi ci sono anche varie monete dei vari paesi che lui attraversa. Certamente io l'ho paragonato a quasi a un esploratore spaziale al giorno d'oggi, no? Cioè erano mondi ignoti. Sostanzialmente, come uno che oggi va su vari pianeti, ora tecnologicamente magari non è ancora possibile, ma l'idea è questa qui, quella di poter magari portare la propria civiltà e vedere cosa si trova negli altri pianeti. Pianeti allora erano l'Asia. L'Asia era poco conosciuta e quindi lui ha questa prospettiva verso il futuro. È un uomo del futuro, non un uomo del passato. Follow. No, non era affatto un colonizzatore. Lui voleva conoscere altre culture, scambiare, condividere, poi riportare nella sua Venezia i contenuti, certo, per avere delle possibilità ulteriori, ma anche per avere culturalmente una crescita. Del resto Venezia, come ho detto, è arrivata a questo anche per lo scambio interculturale, con lo sguardo ad Oriente molto forte, e Marco Polo è stato il primo. Non era ricchissimo, non faceva parte di una famiglia o di un casato così ricco, appunto, questa ne è la testimonianza. Intanto stiamo ascoltando un altro brano ripreso da Stepmother City, dalla Tuva in Mongolia questa voce, ma altri musicisti hanno composto questo lavoro, dall'interpretazione vocale, oltre che raffinata, anche molto così estatica. Perdonatemi questa piccola divagazione da micro sensazione emotiva, e procediamo, andiamo verso la conclusione. È il momento del ritorno, ma ricordando sempre determinate caratteristiche che ho voluto sottolineare. Evidentemente però non sono conquiste militari, sono conquiste economico-culturali. Certamente lui non è particolarmente interessato. Va detto che era un momento, lui si viene a attraversare l'Asia quando c'è il potere mongolo. I mongoli, sì, dominavano tutta l'Asia, quindi gran parte del mondo, forse l'impero più esteso che ci sia stato. Non c'era ancora le Americhe, quindi quella parte di mondo non era conosciuta. E dicevo, quindi c'era questa Pax Mongolica, questa pace, che quindi era facile viaggiare, perché non c'erano le frontiere che ci sono oggi. Paradossalmente era più facile forse viaggiare allora che viaggiare oggi, anche perché lui aveva un salvacondotto, un paiksa, che era proprio una piastra d'oro nel quale il Khan, il capo dei mongoli, lo autorizzava ad andare in qualsiasi luogo. Ed era un salvacondotto e una garanzia, perché era un inviato da questo punto di vista del grande capo mongolo. Quindi è un mondo che in qualche maniera, dopo una serie di devastazioni, era in qualche maniera pacificato e abbastanza controllato, anche se ovviamente c'erano dinastie diverse, perché l'impero era frazionato fra varie signorie. Venezia era una repubblica oligarchica sostanzialmente, quindi dominavano più o meno sempre le stesse famiglie. Marco Polo non è di una famiglia particolarmente importante, però è una famiglia che è, diciamo, benestante. E a me ha sempre colpito molto il fatto che lui parta ragazzino con il padre e lo zio, e questi stanno via 25 anni e la famiglia non va in rovina. Cioè, evidentemente i loro affari erano abbastanza sedimentati, non erano i più importanti mercanti veneziani, però avevano evidentemente una base d'affari. La base loro, in realtà, appunto, questi non abbiamo potuto documentare per ragioni abbastanza evidenti, contingenti, era in Crimea, era a Soldaia, sì, avevano una base a Costantinopoli, ma quella più importante loro era proprio in Crimea, però con i tempi di oggi a questo capitolo abbiamo purtroppo dovuto rinunciare. E appunto la provenienza delle opere. Molte sono anche manoscritti e cose, sono a Venezia, ma ci sono contributi da moltissimi musei. Un'ottima collaborazione l'abbiamo avuta con il Museo di Shanghai, che ci ha prestato moltissime opere cinesi, ma abbiamo opere che vengono dal Qatar, dal Louvre di Parigi, da Berlino, dal Benachi di Atene. Insomma, da musei un po' di tutto il mondo, e quindi da questo punto di vista è stata una preparazione complessa, ma possiamo dire anche di grande soddisfazione da questo punto di vista. A Palazzo Ducale fino al 29 settembre ovviamente 2024 abbiamo I mondi di Marco Polo, il viaggio di un mercante veneziano del 200. Grazie per questa conversazione che ha dato motivo di approfondimento all'esposizione protagonista per la rubrica In mostra, e a presto. Le auguro una buona giornata. Grazie. Grazie a voi. Eccolo qua, il canto di gola viene definito dalla tuva. Alle 8:44 minuti, ringraziando il curatore, co-curatore Giovanni Curatola, insieme a Chiara Squarcina, che salutiamo, già abbiamo conosciuto, ringraziando anche lo studio SC che ha permesso questa conversazione, i mondi di Marco Polo, il viaggio di un mercante veneziano del 200, è fino al 29 settembre 2024. Caro compagno, capisco che hai dei sospetti, ma come ha fatto da povero ad avere il permesso da un imperatore mongolo? Io non ho detto che era uno straccione Marco Polo, io ho detto che non è partito per andare a conquistare altri mondi, non ha avuto il permesso dal doge come ha fatto la cattolicissima Isabella d'Aragona, che è andata là e ha sterminato delle popolazioni intere. Quindi tempi diversi, discorsi un pochettino, anzi un bel po' diametralmente opposti, e quindi capisco certo i tuoi sospetti. Di risposta ti posso dire, come hai sentito, aveva addirittura dei contatti commerciali in Crimea, a Costantinopoli, da lì appunto con l'estensione dell'impero mongolo ha avuto la possibilità di potersi muovere agevolmente. Grazie intanto per questo motivo di conversazione, come ringrazio anche Paolo, che invece ha dato un motivo di interesse, gran bello spunto, mi sa tanto che ci andiamo, magari ci incrociamo a Palazzo Ducale per quanto riguarda l'esposizione protagonista oggi all'interno della rubrica In Mostra. Gozza, che salutiamo, scrive al 333-180-9494. Ciao Andrea, beh, sei un viaggiatore anche tu, anzi siete dei viaggiatori, tappa ad Amburgo, poi Danimarca, non siamo dei Marco Polo. Ma grazie alla tua compagnia nelle colazioni di questo viaggio. Saluti anche Danna e Nicoletta, che ricambio, e vi auguro buon viaggio con un caloroso abbraccio. Con Bill Frisell siamo arrivati alla conclusione alle 8:48 minuti. Un caloroso abbraccio a tutte e a tutti per il Breakfast Club odierno, che però domani, vigilia di weekend, ci sarà con uno speciale su Piazza San Francesco Estate a Bologna, la curatela di Earth. Avremo modo di esplorare i mondi di Bo Noir e anche uno speciale spettacolo su Amy Winehouse. In scena la rubrica che alza il sipario su 103.1 e porta a conclusione questa prima settimana del mese di luglio. Si anche un disco un po' esotico, se vogliamo, però è per mantenerci in tema, ma è stato portato da Bill Frisell, chitarrista americano. Vi do appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon viaggio a chi in questo momento è per motivi di spostamento impegnato in trasferimenti, mi auguro vacanzieri e che tutto sia per il meglio. Oggi giovedì 4 luglio il Breakfast Club termina qui, a breve l'EDP enciclopedico, dopodiché Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Appuntamento a domani con il Breakfast Club, super mattiniere, super mattinieri, mi raccomando, ore 7 e dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.